Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Marianna Stefanucci. Ci sono luoghi nel mondo in cui si respira un'aria diversa da qualsiasi altro posto. Luoghi dell'anima, che restano nel cuore anche quando per istinto o necessità si è costretti a lasciarli. Luoghi che appartengono al vissuto personale come gli affetti più cari. Oggi a Destini Incrociati partiamo da una città di provincia dove ogni strada profuma di lambrusco e pane caldo, dove la modernità passeggia a braccetto con la tradizione e basta una chitarra per essere felici. Siamo a Modena, il cuore pulsante della Bassa Padana, ed è qui che tra la via Emilia e la nebbia sono cresciute le menti più creative ed eccentriche di una generazione, la stessa di cui fa parte il caschetto d'oro. Caterina Caselli. Modena è un centro da un punto di vista musicale, non so, forse favorito anche, o forse grazie anche alle balere, che quindi la possibilità di potersi esibire senza essere necessariamente delle star. Le città come i sogni sono costruite di desideri e di paure, ha scritto Italo Calvino. E Modena sembra fare di tutto per conservare l'armonia del suo buon vivere. Un'armonia che percorre le strade del centro con una vecchia bicicletta dal cestino arrugginito, che si ferma nelle osterie dove le tovaglie a quadri non hanno mai fatto posto a quelle di plastica, e che strizza l'occhio a chi, anche se nei bar sarebbe vietato, non può fare a meno di fumare una sigaretta giocando a scopa. Dalla sera coi strumenti dal bafo, a gamma al basso e la chitarra e poi il violin. Le storie dei vecchi si rincorrono e alimentano continuamente la memoria di questa terra, che da sempre sa trasformare piccoli aneddoti in grandi leggende. La tolleranza è di casa e parte da molto lontano, da quando qui si fermavano i viandanti, i poveracci e i papi, che percorrevano l'Italia da nord a sud e da sud a nord. Per questo, come racconta nella sua rubrica Pino Ligabue, che con orgoglio si qualifica semplicemente come modenese doc, c'è spazio per tutti. La Zemian, gli abitanti di Modena città, i Mudnes, gli abitanti di Modena provincia, i Mudnes Arios, cioè coloro che non sono nati in provincia di Modena ma in Italia, fuori dalla provincia, gli Euromudnes e i Mudnes extracomunitari, perché chiunque vive a Modena è modenese e ha il diritto di stare qua. Sul nostro primo protagonista di oggi c'è un po' di confusione. Qualcuno sostiene che sia un vero Mudnes, qualcun altro dice che sia Mudnes Arios, per la precisione di Parma. L'ipotesi più verosimile è che la madre l'avesse registrato a entrambe le anagrafi, perché era il 1941, piena guerra mondiale, e questo dava diritto a una doppia tessera annonaria per ottenere la doppia dose di viveri previsti dal razionamento. Di certo lui non si è mai preoccupato di chiarire le cose, anzi ha fatto del disordine la sua bandiera, perché è riuscito a metterlo al servizio della creatività. È uno dei più grandi fumettisti italiani, si chiama Franco Bonvicini, ma da tutti è conosciuto semplicemente come Bonvi. Bonvi. Salve, io sono Bonvi. Sono Bonvi. Sono qui nel mio studio di Bologna, deliziosa città ai piedi delle colline. Tra le colline e il mare un po' più lontano. Comunque siamo qui sotto le due torri, nel mio studio, mi hanno chiesto di dire alcune cose sulla mia attività, sui miei fumetti, su chi sono, non lo so. Poi se interesserà qualcuno, vedremo. Non lascerò timone al tempo, guardo l'orizzonte ogni momento, cerco soluzioni e trucchi di magia, credo che alla fine arrivi la cavalleria. All'attacco, miele e tabacco e vino nero contro la civiltà. Grido senza permesso, senza rumore, nessuno sentirà. Datemi mulini a vento. Il Bonvi, più che un semplice disegnatore, potrebbe essere lui stesso, un personaggio dei suoi fumetti. Capelli rossicci lasciati lunghi fino alle spalle, sguardo da cattivo in modo finto e caricaturale, con occhi così spalancati da ricordare il protagonista di Arancia Meccanica, e camicia sbottonata che lascia intravedere ciondoli e collane. A Modena i racconti che lo riguardano si sprecano. Le sue, da vicende personali, diventano imprese eroiche di cui parlare, a seconda dei casi, per giorni, mesi o anni. Ragazzi, avete sentito l'ultima di Bonvi? Urla ogni tanto qualcuno entrando trionfante all'osteria. Certo che grazie alle mirabolanti avventure dell'amico riuscirà a catturare l'attenzione di tutti fino a diventare il protagonista della serata. Allora, questo è Bonvi, Bonvi. Una prima, vado col Chuck. Chuck! Bonvi studia, ma non ci mette molto ad accorgersi che non gliene importa nulla di immagazzinare dati in modo sterile. Vuole solo disegnare e stupire, stupire e disegnare. Ha un carattere irriverente e una verve creativa che non lascia dubbi sul suo genio. È estroso e sopra le righe. Si veste in modo appariscente e in modo ancora più eccentrico si comporta. Ah beh, allora, se volete la cruda realtà, ecco come sono andate le cose. Colora tutto quello che gli passa tra le mani. Gli piace lasciare ovunque tracce del suo passaggio. Quando va a trovare qualche amico, immancabilmente, sulla sacca da ginnastica del malcapitato o del fortunato, a seconda di come la prenderà, compare una figura, un'animazione, una faccia, che sembra parlare. E non c'è tovaglia in nessuna trattoria di Modena che non sia stata personalizzata dal suo tocco, ormai riconoscibile in tutta la zona. Gli basta un pennarello per far vivere gli oggetti. A guidarlo è l'istinto. Bonvi lavora di getto, secondo quello che gli dice la pancia. Non segue regole prestabilite e tantomeno gli importa di compiacere qualcuno con quello che fa. Semmai, anticipa, senza averne la coscienza, uno dei principi fondamentali del mondo della comunicazione. Bene o male, non importa. L'importante è che se ne parli. Mentre sulla Valpadana calano le prime ombre della sera, chi si appresta a dare inizio ad una nuova, titanica, colossale, fantastica impresa creativa? Chi, angosciato dal tremendo compito che lo attende, cerca conforto in preziosi infusi esotici? Chi, captando dall'etere suoni lontani, ascolta le voci del mondo? Romagna, Romagna mia! Ma è lui, il Bonvi, il genio! Tanto talento nella Modena provinciale degli anni 50 e 60 potrebbe andare facilmente sprecato. Il giro degli amici con lui si diverte, gli vogliono bene tutti. I più illuminati ne capiscono il genio. Ma nessuno sembra prendere davvero sul serio quel ragazzo che ostenta la sua follia per nascondere, in fondo, un grande pessimismo. Tutti, tranne uno. Se avessi coraggio, se aprissi del tutto le porte... È un giovane che viene da un paesino, Pavana, in cui c'è un vecchio mulino dal quale fa fatica a separarsi. Ha la barba lunga e i capelli che si addomesticano a malapena. Ha la R arrotata che tiene sempre a precisare è ben diversa dalla raffinata R moscia. È genuino, schivo e sogna di fare lo scrittore. Il suo nome è Francesco Guccini. Francesco Guccini. C'è una cosa buffa da dire, che le canzoni sono arrivate dopo. Io sognavo di fare lo scrittore fin da ragazzino. Il rapporto tra letteratura e musica spesso è stretto e complementare, ma mai come in questo caso. Perché se dalla mente colta e romantica di Guccini sono usciti alcuni dei pezzi più belli della storia italiana, questo è sicuramente dovuto al fatto che fin da piccolo leggesse moltissimo. Io sono sempre stato un lettore. Ho cominciato in età prescolare leggendo Il Corriere dei Piccoli, leggendo Pinocchio. Pinocchio è stato il primo libro che ho letto, che poi ho sbarrito in uno dei tanti traslochi della mia vita. I miei nonni avevano un piccolo scaffale, chiamato pomposamente libreria, e lì c'era di tutto. Per esempio ricordo I Tre Boy Scout, L'Uomo che Ride di Victor Hugo, le riviste, i Life, The Saturday Evening Post, che gli americani avevano lasciato. Se Modena unisce Bonvi e Guccini per DNA... è l'America a unirli attraverso il sogno. Allora l'America era il mondo, l'America era la meta, era un qualche cosa che tutti sognavamo, perché il cinema era americano, la musica era americana, i libri, la letteratura era americana, insomma. Noi disprezzavamo tutto quello che poteva essere locale, italiano. Sarà forse un'assurda battaglia, ma ignorare non puoi che l'assurdo ci sfida per spingerci ad essere fieri di noi. Quante volte ha sfidato il destino, aggrappato ad un legno, senza patria bestemmi in latino, quando il bere l'impegno. Per fortuna che il vino non manca e trasforma la vigliaccheria di una ciurma ribelle già stanca in un'isola di compagnia. Bonvi e Guccini si conoscono a Modena alla fine degli anni 50. Sono molto diversi tra loro. Il primo eccentrico e provocatorio, con un'indole che tende al caos. Il secondo discreto e rispettoso, portato allo studio e alla lettura. Se Bonvi è il protagonista incontrastato dei racconti degli amici, Guccini è il poeta che gli amici si portano dietro per impressionare le ragazze. Ma al di là del carattere, sono semplicemente due ragazzi che vivono la realtà della provincia come la vivono tutti gli adolescenti, sentendosi intrappolati in qualcosa di limitante, chiuso, soprattutto rispetto a quello che vedono arrivare da oltreoceano. Vivono ai bordi della Via Emilia, che attraversa la pianura, ma sognano la mitica Route 66, che attraversa l'America. E quindi la Via Emilia era quel pezzo di strada lì, non aveva un senso diverso. Era soltanto quella strada che noi ragazzini non potevamo attraversare perché i genitori ce lo impedivano, perché c'era traffico, e che noi invece con grande coraggio attraversavamo spesso per andare nelle campagne che allora circondavano Modena. Questa è per me la Via Emilia. I film di Hollywood, così nuovi e sorprendenti, il rock and roll di Elvis Presley, le pin-up sulle copertine di Playboy, e poi la radio, il flipper, le motociclette, la ribellione, la voglia di andare. E quindi l'America era un po' tutto, noi avremmo dato via qualunque cosa per poter andare in America, nell'America, ecco. Questa era l'America che noi sognavamo, e lo sognavamo in questa piccola città, andando su e giù per questi portici, sognando in tutti gli anni 50 questo impossibile sogno americano. Da Modena all'America c'è di mezzo un intero mondo, un modo di pensare, una concezione della vita, l'apertura di uno sguardo. Tutto quello che arriva da lì ha il sapore dell'esotico, della novità rivoluzionaria, del futuro. Mentre invece tutto ciò che viene dall'Italia è considerato poco interessante, fuori moda, in una parola, vecchio. Ricordo Bonvi che nel 59, credo, ci fu uno spettacolo studentesco, una specie di concorso studentesco per tutte le scuole di Modena, si chiamava Tutti contro Tutti. E Bonvi era incaricato delle scenografie. Arrivava, guardava e diceva: scusate, ma avete presente la scenografia all'americana? Poi andava lì, non ha mai spiegato cosa fossero le scenografie all'americana, però bastava questa magica parola. Dell'America, di libri, musica e fumetti, si parla alla sera, nelle osterie storiche, davanti a un bicchiere di buon rosso. Emilia sdraiata fra i campi e sui prati, lagune, piroghe delle terramare, guerrieri del nord ai capelli gessati, ne hai visti passare. Sia Guccini che Bonvi tengono tra le dita della mano sinistra una sigaretta, sempre. Finita una, se ne incomincia un'altra. Ma Guccini sulle gambe ha una chitarra, nella mano destra un plettro. Bonvi nella mano destra tiene una matita. È giovane, ma sa già che quello del fumettista può essere il mestiere del suo futuro, quello che gli darà da mangiare per tutta la vita. Giura davanti a tutti che potrebbe riconoscere una striscia di paperino originale fatta dalla mano del suo vero disegnatore tra mille altre. E non vuole perdersi neanche un minuto di ispirazione. Per la verità, al di là di quelle che sono normali paure di un artista, il foglio di Bonvi non rimane mai bianco. Così come non rimangono puliti i tovaglioli, tovaglie, tavoli, muri, magliette, giubbotti. Ha un bisogno di disegnare che è al limite della bulimia. Scrive su tutto ciò che gli capita a tiro. Guccini si diverte a provocarlo. Lo sfida in modo goliardico, stuzzicandolo con imprese surreali. Gli chiede disegni ad hoc per conquistare una ragazza. Non che ne abbia bisogno, ha già la sua chitarra che è un ottimo strumento per far cadere ai suoi piedi romantiche fanciulle. Ma ordinare un disegno a Bonvi è sempre un divertimento, soprattutto perché lui non si tira mai indietro. Prima accenna uno schizzo e poi, con qualche piccolo accorgimento, il gioco è fatto. Basta ingrossare un po' il tratto per dare maggiore consistenza al disegno. Aggiungere qualche ombra qua e là per aumentare il senso del rilievo e completare le linee essenziali. Fare il fumettista o il fumettaro, come si dice in un gergo un po' più sporco, è un'ambizione abbastanza anomala per un ragazzo di Modena degli anni 60. È vero che l'Italia dopo la terribile guerra comincia a stare meglio, che le novità americane e il boom economico stanno lentamente rendendo migliore la vita di tutti, ma la creatività, e soprattutto una creatività così specialistica, è comunque ancora qualcosa di strano, un lusso quasi, perché a lavorare nella comunicazione sono in pochissimi. Eppure Bonvi, testardo e determinato, ci crede. Non è il solo. Anche Francesco Guccini, il suo grande amico, crede fortissimamente nel suo talento. Bonvi non è semplicemente un pazzo con una folle immaginazione, è un genio. E partendo da Modena, tutto il mondo dovrebbe arrivare a saperlo. Certe notti, macchina calda, e dove ti porta lo decide lei. Certe notti la strada non conta, quello che conta è sentire che vai. Certe notti la radio che passa negli anni sembra avere capito chi sei. Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo a Modena, alla fine degli anni 50, e uno sconosciuto Francesco Guccini si diletta nelle osterie con la chitarra per la gioia degli amici che così hanno modo di attirare le ragazze. Ed eravamo un gruppo strano perché non giocavamo a calcio, non a pallavolo, se non qualche volta, quindi sport niente. Parlavamo di libri, parlavamo di fumetti. Impossibile non farlo, visto che in compagnia c'è anche quella strana creatura che sembra venuta da un altro pianeta, che si chiama Franco Bonvicini, ma che tutti chiamano, con la solita abitudine italiana di accorciare i cognomi, il Bonvi. A lui non basta disegnare per diletto su qualsiasi cosa trovi, vuole proprio fare il fumettista. Una scelta piuttosto inusuale per un ragazzo cresciuto nella provincia di 50 anni fa. Noi del tortellino natale, e fosse stato quotidie, noi avviluppati da fumi di lambrusche altrui e da vendemmie tobrine di sughi e sape, noi di pesante accento padano con gutturali longobarde e celtica vocale strascicate, noi volgari, grezzi, rozzi, primitivi, pesanti, ignoranti, infoiati, provinciali, tristi, melancolici. Ma Bonvi è un vero precursore dei tempi, intraprendente, fantasioso, divertente. Si sprecano gli aneddoti che lo riguardano e che di bocca in bocca diventano sempre più imprese eroiche. Bonvi ha fatto questo, Bonvi ha fatto quello. Spesso è lui il grande protagonista delle chiacchiere da bar. Per questo motivo forse nessuno lo prende davvero sul serio. È genio e sregolatezza. Ma se tutti ridono per la sua sregolatezza, soltanto a Guccini interessa aiutare il genio. Ed è così che un giorno gli presenta il suo amico Guido De Maria, vulcanico numero uno della neonata casa di cinema d'animazione Winder Film. Bonvi e Guccini, dopo il rituale caffè sotto i portici, si presentano insieme nell'ufficio di De Maria. Francesco sta già collaborando con lui, scrive testi e gag, ma pensa che nessuno più di Bonvi potrebbe essere adatto a quel lavoro così nuovo e creativo. Quello che serve per fare fumetti e cartoni è avere in testa un mondo parallelo, magico, surreale. E Bonvi ha questo dono. E molto di più. Oh, voglio dirvi subito che non è affatto vero che per creare un nuovo personaggio si debbano fare prove su prove, disegni su disegni, o perlomeno non è vero nel mio caso. Secondo me, un personaggio nasce di getto nella mente di un disegnatore. Dopo si tratta solo di trasferirlo sulla carta nella maniera migliore. Bonvi, De Maria e Guccini iniziano a fare insieme quello che oggi, con l'esperienza della pubblicità e della comunicazione, si chiama brainstorming. In parole povere, iniziano a tirare fuori idee, una dietro l'altra, attaccandosi al pensiero dell'altro come se fosse la chiave per interpretare il proprio, in un vortice creativo che sembra ancora un gioco, ma che presto diventerà qualcosa di ben più importante. Ridere, in fondo, è sempre una cosa seria. Rido quando mi pare, rido. C'è neanche voglia e rido e poi non rido più. Rido, chiude la ditta e rido. Colgo il disturbo e rido e poi non rido più. Rido, se è spento un sogno e rido. Allora, o vivo o rido. E poi non rido. Stop, sì. Più. Ciao. Il trio Bonvi De Maria Guccini si diverte a sperimentare con la pubblicità. E il miglior contesto per farlo, nell'Italia degli anni 60, è Carosello. Il loro Salomone pirata pacioccone diventa un cult tra i bambini che aspettano con ansia di vederlo comparire sullo schermo prima di andare a letto. Son Salomone il pirata pacioccone e solco i mari col mio fido galeone. Con un forza pazienza so placare ogni violenza fra i corsari. Ma Bonvi intanto coltiva anche una passione per le armi e il mondo dei soldati, che sembra difficile conciliare con il suo spirito da bambino irriverente. Tutti lo considerano un grande pacifista, ma lui in fondo, anche se non in forma dura, ha un po' il mito romantico della guerra, che naturalmente declina a modo suo. Per esempio, indossando vecchie mimetiche e improbabili uniformi d'epoca. Il Bonvi fa il servizio militare e viene mandato al confine con quella che allora era la Jugoslavia. Narra la leggenda che in un radioso pomeriggio di agosto, al comando del suo plotone di 6 carri armati M47, un po' per distrazione, forse anche per provocazione, abbia attraversato coi carri al seguito il confine. Nonostante un tale atto si configurasse come una dichiarazione di guerra in piena regola, il sottotenente la passa liscia e impara molte cose sull'esercito. La prima è che più grossa la fai e meno puoi essere punito. La seconda la ricorda il giornalista Carlo Gatti. Pure su che il Bonvi apprese l'esistenza dei soldati e soprattutto quella delle retrovie e delle furerie. Una folgorazione che non seppe tenere segreta. Ne fece un sommario a strisce circa 1392, per evidenti ragioni mnemoniche. E dalla scuola di guerra, il Bonvi uscì come un caso a parte, più a parte di ogni altro addetto alle retrovie. Dalla penna di Bonvi nasce Sturmtruppen, la raffigurazione satirica della Seconda Guerra Mondiale vista dagli occhi delle micidiali ma goffe truppe d'assalto tedesche. Casetta in trincea, po po po, anche se viene di avea, respirando in apnea, per non tradire nostra idea, in der Furgenfurt, Achtung! I suoi soldatini debuttano ufficialmente sul quotidiano Paese Sera, ma poi saranno ospitati da altri giornali e molti periodici nel corso degli anni. Per la prima volta in Italia, Bonvi usa il formato a strisce orizzontali. Nessuno prima di lui l'aveva mai fatto. Non si tratta semplicemente di satira contro la guerra, perché i soldatini di Bonvi in realtà sono solo un pretesto con cui egli, anarchico e provocatorio, sbeffeggia quell'obbedienza cieca, pronta, assoluten, che può essere di tutti, dagli studenti agli impiegati. Utilizzando un italiano germanizzato, per dirla alla Sturmtruppen tedesken, Bonvi mette in scena avventure improbabili e grottesche, provocate dalla mancanza, nella guerra, di tutte quelle cose che permettono all'uomo di vivere e non di sopravvivere. Il buon cibo, il sesso, la pace. Tra le colline sconvolte, i campi minati, le trincee e i reticolati, una generazione di eroi s'appresta a combattere per la gloria della patria. L'epica saga delle Sturmtruppen sta per iniziare ancora una volta. Per Bonvi è già la consacrazione. In poco tempo, grazie all'aiuto e al sostegno del suo amico Francesco Guccini, riesce a diventare un vero fumettista. Seguono anni di vero e proprio fervore creativo, in cui il Bonvi dà vita, uno dietro l'altro, a nuovi e divertenti personaggi. Ognuno, a suo modo, una caricatura di un particolare aspetto del vivere quotidiano. Tratto vivace e senso dell'umorismo sono i suoi assi nella manica. Mentre quando è in crisi di ispirazione, la sua droga resta sempre la stessa. E quando uno ha queste crisi, cosa fa? Si rifugia. Si rifugia in un mondo possibile. Ricorre a delle cose. Ciascuno fa quello che vuole. Io, per esempio, quando ho queste crisi, torno a Bologna. Perché a Bologna? Perché a Bologna ci sono i pusher. Sì, questa gente schifosa che mi vende la droga, ed è soltanto qui che la posso trovare, ed è essa, la droga, sì, è droga che posso avere, ed è quella che mi dà idee. Sì, tagliatelle, lasagne, tortelloni, lasagnotti, ravioloni, raviolotti, altro che Hemingway, altro che Kerouac. Signori, questa sì, è la vera droga, la droga del vero fumettaro. Mentre continuano le scorribande insieme, Guccini e Bonvi crescono anche artisticamente, trovando la loro strada. Il primo sta diventando un grande cantautore, senza dimenticare mai il suo primo amore, la scrittura. E il secondo sta sorprendendo il mondo con la sua fantasia pazza e geniale. Per esempio, inventa il famoso antieroe Cattivic, parodia dei fumetti neri che poi lascia perfezionare, cedendoglielo al suo allievo, Silver, che sarebbe diventato un altro dei grandi fumettisti italiani. Sparati a frecce, campani che si erano Sono gli anni della contestazione e lo stesso Guccini è in prima fila. Ma la vita non è fatta solo di politica, è fatta di incontri, di bevute, di chiacchiere, di pensieri condivisi. E i due sono troppo legati per lasciarsi scappare l'occasione di lavorare ancora insieme. Li unisce Modena, li unisce la passione per l'America e la voglia di scoprire la fantascienza. Ancora non lo sanno, ma nelle loro menti sta germogliando il seme niente meno che di guerre stellari. Voglio trovare un senso a questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo alla fine degli anni 60 e due giovani amici di Modena stanno trovando la loro strada nel mondo artistico. Il primo è Francesco Guccini e ha trovato nel fare il cantautore la giusta sintesi tra la sua passione per la musica e quella per la scrittura. Il secondo è Franco Bonvicini, da tutti chiamato semplicemente il Bombi, che proprio grazie a Guccini è riuscito a diventare, come ha sempre sognato, un fumettaro. È stato Guccini, infatti, a credere nel talento del suo amico Bombi, fino a presentarlo a Guido De Maria, a capo di una neonata casa di animazione. I tre lavorano insieme a gag, testi e pubblicità, soprattutto per Carosello, e si divertono moltissimo. È un bel periodo per vivere in provincia. Negli anni 70, Bologna è stato, si può dire, un'isola felice, sotto tanti aspetti. Non c'era ancora il problema dell'urina, per esempio, saltato fuori anni dopo. Bonvi e Guccini, tra un bicchiere di vino rosso e mille sigarette, scrivono a quattro mani storie dello spazio profondo, che rappresenta uno degli episodi più originali del rinascimento del fumetto italiano che era in corso in quegli anni. Protagonisti principali, un umano e un robot, sono la versione a fumetti degli autori. Bonvi, l'umano biondo dai principi morali piuttosto elastici, e Guccini, il robottino pedante ed efficiente. Lo sfondo è un mondo fantascientifico che anticipa di 10 anni niente meno che alcune scene di Star Wars. Si può inventare un mondo anche da Modena, non solo da Hollywood. Il libro ha un grandissimo successo, nonostante Guccini preferisca poi continuare a dedicarsi alla sua musica. E quando De Maria viene chiamato a lavorare in Rai per creare un programma contenitore per ragazzi e non solo, decide di coinvolgere proprio Bonvi. Nasce Gulp, di cui il critico Vito Lorusso racconta il debutto. Allora, Gulp, iniziamo da Gulp. Gulp e fumetti in TV. Era un programma nato nel 1972, il 14 settembre per la precisione. Partecipavano due personaggi del cinema d'animazione e del fumetto, Bruno Bozzetto con il signor Rossi e Nick Carter di Bonvi De Maria. Vi faccio vedere io come si fa fare un Nick Carter. Nick Carter è una parodia dell'investigatore apparso nei fumetti degli anni 30, in cui il protagonista è felicemente affiancato dalle due spalle, Patsy, il grande e grosso, e Ten, il cinesino che parla per rime e proverbi. Tu non sei Carmen Gutierrez, bensì Stanislao Murinsky, falso barone spagnolo. Ebbene sì, maledetto Carter, hai vinto anche stavolta. Sei grande, Nick. Bel colpo, capo. Sempre in forma, Carter. In effetti immaginavo tutto ciò ancora prima che accadesse. Ma a spopolare sono anche le Sturmtruppen, che dalla carta passano al cartone animato per il divertimento di grandi e piccoli. Ehi, Cameraten, come ci si sta qui? Mi hanno appena trasferiten. Beh, a parte i topen, i pidocchien, la scabbia, il fango, la pioggia, il freddo, il tifo, il colera, i cecchini, i bombardamenti e i campi minaten, abbastanza bene. Ah, suppongo che avrò problemi di ambientazione. Hai capito bene qual è la funzione di un cecchino? Devi sparare su tutti i soldaten che attraversano questa strada. Jawohl, mein Sergeanten! Quelli nemici, cretino! Ed ora vedrai sul video sfilare gli eroi che ti fanno sognare. Ci sono anche quelli di mamma e papà. se qualcuno anche a te piacerà. Ragazzo, che aspetti? Gulp, presentato da Cocchi e Renato, fa milioni di telespettatori. Persone di tutte le età aspettano di vedere iniziare il nuovo episodio di Sturmtruppen o le avventure del detective Carter. Per il critico Vito Lorusso è una novità dagli esiti sorprendenti. Questa trasmissione ebbe un successo clamoroso perché in quel periodo andava in contemporanea con dei programmi su Rai 1 di Mike Buongiorno, che erano i telequiz appena nati in quel momento. Ed era una trasmissione che oggi forse è impensabile, pensare che andava alle 20:40, quindi in prima serata. Ebbe un successo incredibile. Mentre Guccini scrive alcune delle più belle canzoni della storia della musica italiana, senza dimenticare mai gli amici di Modena, Bonvi continua la sua strada nell'animazione. Quella stessa strada che proprio Guccini gli ha aperto quando ci credeva più di tutti. Ma se da un lato Gulp continua a divertire, a un certo punto gli eroi non bastano più. Spider-Man, Uomo Ragno, i Fantastici Quattro. Anche la televisione italiana si appresta ad accogliere un plotone di supereroi dai poteri assoluti e le avventure sopra le righe. Gulp diventa nel 1977 Super Gulp e moltiplica ulteriormente il suo successo. Sia ben chiaro che d'ora in poi non voglio malinconie e commozioni varie a Super Gulp. L'imperativo categorico del nostro programma è ridere! Pazzi, basta così. Non esageriamo, perbacco. Francesco Guccini e Bonvi, due amici di Modena così diversi, eppure con gli stessi sogni. Guccini, robottino saccente che di innocuo ha solo l'aspetto, e Bonvi, simpatica canaglia in perenne dopo sbronza. È così che si sono ritratti insieme quando si sono resi protagonisti di storie dallo spazio profondo. Un modo come un altro per cementare prima di tutto un'amicizia che va oltre la morte. Bonvi perde la vita in un incidente stradale investito mentre si sta recando come ospite alla trasmissione Roxy Bar dell'altro comune amico Red Ronnie per vendere alcune sue tavole il cui ricavato sarebbe andato a Magnus, all'epoca malato di cancro. Un brutto gioco del destino, il dolore di chi resta, è una canzone per lui che nel suo piccolo ha un po' cambiato il mondo. Magari si potesse tornare non solo con nostalgia, anche fisicamente. Il difetto è che non ci si torna e si ricordano delle cose, ma si possono ricordare perché noi viviamo sempre nel passato, perché l'oggi scappa velocissimo e il futuro non sappiamo quale sia. E all'uno in punto si sente il suono, pacciottolante che fanno i piatti, le TV sono un rombo di tuono per l'indifferenza scostante dei gatti. Come vedi tutto è normale, in questa inutile sarabanda, ma nell'intreccio di vita uguale, soffia il libeccio di una domanda, un gerovaio d'un dubbio eterno, un formicaio di cose andate, di chi aspetta sempre l'inverno, per desiderare una nuova estate. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.